Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, partiamo da Berlino. Il presidente della BCE Draghi dice l'Europa non si trova in un decennio perduto. Nel secondo decennio invece, dice il presidente della BCE, l'Eurozona sta recuperando gli errori fatti nel primo decennio della sua esistenza, lo fa stabilendo le fondamenta per una crescita sostenibile nei decenni a venire. Così questa mattina Draghi, dicevamo, a Berlino in un congresso organizzato dalla Süddeutsche Zeitung. E ora agricoltura, l'agricoltura spesso al centro dei nostri appuntamenti in queste settimane in cui viene definita, costruita di fatto la nuova politica agricola comune. Il progetto è quello di dare un'agricoltura più verde, meno burocratica, soprattutto un'agricoltura e una PAC che indirizzi i finanziamenti verso chi realmente lavora la terra. Ecco, in tema di politiche agricole resta però completamente sul tavolo il nodo della normativa europea sugli OGM, un aspetto che per molti versi si tende a non affrontare. La questione dei rischi per la salute non è stata ancora approfondita, dice ai microfoni di Euronet Plus l'europarlamentare José Bové, vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale e grande oppositore appunto delle tecnologie in agricoltura. Sentiamolo. En 2008 l'ensemble des ministres de l'environnement. Nel 2008 tutti i ministri europei dell'ambiente chiesero alla Commissione una nuova valutazione, nuovi criteri per la valutazione degli OGM. Sfortunatamente il lavoro che è stato fatto ha registrato progressi molto deboli. La cornice di valutazione degli OGM è di fatto molto labile, specialmente per quanto riguarda i rischi per la salute. L'Europa non ha fatto nessun test, quindi non conosciamo gli effetti a lungo termine derivanti dal consumo di OGM. E abbiamo chiesto, gli Stati hanno chiesto, che siano intraprese delle azioni in tal senso. Spero che qualcosa verrà fatto nei prossimi anni, ma al momento niente è stato fatto. I rischi ambientali invece sono dimostrati, non ci sono dubbi, intendo. I rischi derivanti da mais erbicida, erbacce, quelle che sono conosciute come erbacce ma in realtà non lo sono, per esempio, diventano resistenti e quindi pongono un problema per il cibo. È appena successo negli Stati Uniti in modo rilevante. È il fenomeno della disseminazione verso altre varietà. Il rischio dell'impollinazione da OGM verso varietà senza OGM. Quindi ci possono essere sementi che diventano inquinate. Quanto a insetti e mais OGM, essi possono morire, ma se non muoiono, resistono e si riproducono. E ora andiamo a sentire invece Guido Leverini. Guido Leverini è un ingegnere, un responsabile per l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, di un progetto che si chiama Sentinel. Sentinel 1 è il primo di una generazione di satelliti, di nuovi satelliti specializzati che interverranno, ma sulla scorta dell'esperienza fatta con quelli precedenti, che intervengono sul sistema di intervento pubblico sulle catastrofi ambientali. Infatti lo sentiamo, Leverini parla anche degli eventi sardi. Sentiamolo. Il programma Copernicus è una risposta strutturale, sistematica al bisogno di questo tipo di informazioni. Quello che succede, quello che è successo fino ad oggi, è che quando avviene uno di questi eventi, per esempio quello che ha colpito nei giorni scorsi la Sardegna, si cercano i dati da tutti i satelliti disponibili. A volte si è fortunati e capita che c'è una misura presa da un qualche satellite, a volte si è sfortunati e non si hanno questi dati. Con il lancio del satellite Sentinella 1 ad aprile dell'anno prossimo, questa situazione cambierà, nel senso che avremo delle misure sistematiche, saremo certi di avere sempre le misure di cui abbiamo bisogno per aiutare le operazioni di soccorso. L'Italia è il secondo Stato partecipante, sottoscrittore al programma, dopo la Germania. Italiana è la ditta che opera come prime contractor, Thales Alenia Space Italy, e le operazioni del satellite sono coordinate dal centro ESRIN, che è basato a Frascati. Una notizia appena battuta dalle agenzie: il governo dell'Ucraina ha deciso di sospendere la preparazione della firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea, lo riferisce l'agenzia RIA Novosti. Questo accordo costruito ormai da 2 anni, era stato al centro di un grande dibattito e ora, come leggiamo appunto dalle agenzie, il governo ucraino avrebbe deciso di sospenderlo, e anche questo uno degli effetti delle forti pressioni esercitate da Mosca. Con questo abbiamo concluso. L'Europa torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.